Buongiorno Lia, ci troviamo a Dolcè. Tra Dolce, Peri e Rivalte. Siamo oggi insieme a te, in compagnia anche di tantissime altre creature. La prima cosa che ti vorrei chiedere è se ti puoi presentare dandoci una breve scheda di te, chi sei, che studi hai fatto e come mai ci troviamo qui, cosa stiamo facendo. Mi chiamo Lia Zambelli, vengo da Bolano. Ho studiato all'Istituto Agrario di San Michele all'Adige. Io sono tecnico imprenditore agricolo e ho conseguito la maturità l'anno scorso, a luglio. Da novembre 2022 ho iniziato Pascolo Transumante assieme ai miei soci Daniel e Michael. E adesso come ti definisci? Vorrei definirmi pastore, però effettivamente lo sono, o almeno lo faccio, faccio questa vita. E ci sono più o meno 700 pecore, un centinaio di capre, 6 asini e 8 cani. Ho E come mai questa scelta? Da cosa è partita? sempre avuto la passione degli animali, curare gli animali, vedere quando stanno male o stanno bene. È partita da una grande amicizia e mi hanno proposto questo lavoro e allora ho deciso, ma sì, tanto sono giovane e voglio avere esperienze, più esperienze possibili. Dalla mia parte ho mio papà che è un grande appassionato di animali, quindi avrei il suo aiuto. E ho un grande sostegno ovviamente dalla famiglia, ci vuole, è essenziale per fare questo lavoro, perché essendo sempre in giro, sempre transumanti, bisogna avere un punto fisso e quella è la famiglia. Ma come funziona il tuo lavoro? Gli animali sono in malga, quindi si fa la desmontegada, quindi si scende dalla malga con gli animali, Dov'è la malga? Val dei Mocheni. E dalla Val dei Mocheni si scende per la Val Sugana, si arriva a Trento e poi da Trento si scende e si arriva più o meno nei dintorni di Affi, comunque Alto Veronese, e si pascolano i campi, i prati, maggiormente le vigne, quindi i vigneti e quando diciamo c'è mancanza di erba, così si decide di ritornare in su e prendere il percorso che si è fatto per scendere. Quindi si ritorna e al pascolo in alpeggio. Adesso volevo farti una domanda sul tuo rapporto personale con la terra che tu ti ritrovi ad attraversare, no? Perché vedi tante realtà, tu le cammini tutte queste realtà, vero? Non le fate con i mezzi. No, no, tutto a piedi. Noi ci muoviamo a piedi lungo ciclabili oppure lungo strade se non c'è altre possibilità. Abbiamo una macchina, un pick-up con dietro il rimorchio, roulotte, carretto e gli agnelli, ma comunque siamo sempre a piedi, uno davanti e uno dietro il gregge. C'è un legame strettissimo tra pastorizia e agricoltura, perché noi pascoliamo su campi coltivati. E che cosa vedi durante questo tragitto? Si deve sempre avere un buon rapporto con i contadini, perché ovviamente se si può si pascola sempre sui loro campi, quindi se riusciamo ad avere un buon rapporto è sempre meglio e rispetto è la base. E per il resto vedo tanta tanta inciviltà. Lungo l'Adige c'è tanta spazzatura, quindi gli argini non sono tenuti, diciamo, in condizioni ottimali. Poi tanta civiltà, macchine o persone incivili che non rispettano il tuo lavoro perché comunque bisogna avere tempo, le macchine che si fermano e magari iniziano a insultarti perché sono in ritardo per andare al lavoro, non riescono a godersi quei 5 minuti di tranquillità e di pace, di silenzio completo, di campanelle che suonano e basta. Il classico insulto che ci dicono è che sporchiamo le strade. E io vorrei dirgli, ma tu che lasci l'acciunga per terra o te che lasci il mozzicone di sigaretta per terra, quanto pensi che duri? Ovviamente ci sono quelli che ti congratulano e ti dicono che fai un ottimo lavoro e fai un bel lavoro, però ti rimane sempre quell'unico giudizio malizioso che ti fanno al giorno. Tu che cosa vedi quando cammini lungo i campi? Com'è la campagna? Se è cambiata rispetto a quando eri già bambina, rispetto alla tua memoria personale? Oppure raccogli visioni, voci, esperienze? Beh, sono cresciuta a Volano, quindi posto della viticoltura. Sono cresciuta in mezzo alle vendemmie, in mezzo alle persone che chiacchieravano. Hanno sempre parlato male dei pastori, hanno sempre parlato male di questo lavoro qua, invece è la mia passione più grande adesso. Dipende dai posti, dai luoghi in cui si va, perché ci sono i contadini che ti rispettano e ci sono quelli invece che non ti lasciano entrare nelle campagne. Magari i contadini di adesso, di oggi, sono meno attaccati alla terra, quindi i contadini più giovani hanno altro a cui pensare, hanno più tecnologie, quindi stanno meno in campagna, mentre un tempo, secondo me, i contadini si alzavano la mattina, andavano in campagna e stavano lì fino alla sera e quindi magari ci chiacchieravi più spesso. Beh, io sono stata istruita a San Michele e formata per diventare in futuro un'imprenditrice e quindi sicuramente in futuro avrò una mia azienda agricola, magari transumante, magari invece avrò una stalla. Mi piacerebbe avere più entrate, quindi magari fare attività didattica, fare trasformazione, vendita diretta, comunque avere un rapporto diretto con i clienti. Il futuro prossimo, diciamo, è un'estate calda e secca. Si è già visto nella scorsa, i problemi si stanno facendo sentire, anche adesso che è primavera, che per assurdo dovrebbero stare bene gli animali, invece è troppo caldo e non c'è acqua. Con gli animali bisogna sempre vedere un futuro breve, non troppo lontano. Noi raccogliamo queste voci per la terra. Hai delle idee o delle proposte perché appunto queste visioni non rimangano tali? Bisogna puntare sull'istruzione, secondo me, sui bambini, le future generazioni, perché alla fine la mia generazione, diciamo, generazione Z, ok, noi vedo già una mentalità diversa rispetto ai miei genitori e rispetto ai miei nonni. Spero che ci siano sempre più donne a lavorare dietro alle pecore, come transumanza. È difficile, però vedo tante ragazze della mia età e anche più giovani sempre più appassionate e spero che nessuno e nessun giudizio le fermi, perché è quello che la maggior parte fa cambiare idea. Spero anche che ci sia tanta più innovazione e tanta più ricerca, perché magari il pensare antico, il pensare vecchio è come faceva mio nonno, come faceva mio bisnonno. Invece adesso bisogna confrontarsi anche con gli altri e confrontarsi con veterinari e essere sempre con menti aperte, perché potrebbero migliorare le condizioni del tuo gregge, potrebbero migliorare le tue condizioni di vita. Hai un racconto di meraviglia. C'è qualcosa di meraviglioso della terra che cammini. Vedere un animale crescere, nascere e crescere sempre all'aperto e sempre in terra, quindi mai fuori dal luogo più naturale in cui possono vivere. Vedere come crescono bene, come sono sani e poter dire sto allevando in un bel modo, quindi sto dando all'animale un giusto presente e possibilmente un giusto futuro. Un agnello che è nato e a Chizzola, mi ricordo benissimo ogni volta che lo vedo nel gregge. Sono veramente orgogliosa che sia cresciuto così bene. E ogni volta ci stupiamo anche io e Daniel assieme e diciamo cavolo, è veramente venuto un bell'agnello, è stato allevato sotto dalla sua mamma. Ti si riempie il cuore di orgoglio.